Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa, e in regia questa sera ci sono Roberto e Michele. Buonasera ad entrambi e grazie per il supporto tecnico questa sera. In collegamento dovrebbe esserci come sempre Alessandra. Buonasera. Buonasera Annalisa e buonasera a tutti gli amici radioascoltatori. Dunque Alessandra, una nuova puntata di Giro di Boa, come sempre il nostro programma al passo con l'attualità. Parliamo questa sera di quanto sta avvenendo in Italia. L'Italia, chiamata a gestire una crisi di governo anomala, ha risposto con un governo del Presidente della Repubblica, un governo che a detta di molti più tecnico non poteva essere. L'esecutivo presentato da Monti non fa però l'unanimità nel centrodestra. Obiettivo dichiarato di questo governo è contrastare la pesante crisi economica e rispondere con misure concrete alle richieste di Bruxelles. Lo spread tra i buoni del tesoro italiani e quelli tedeschi ha raggiunto però i massimi livelli martedì di questa settimana, quando Berlusconi già si era dimesso. Dunque forse non era una questione personale legata a Berlusconi? L'euro è sotto attacco. Come ci si muove in una crisi di sistema come quella della zona euro? Senza dimenticare che c'è anche chi parla apertamente di un partito dello spread. E ne parliamo questa sera con due ospiti, il primo dei quali già in collegamento. Alessandra, ti passo la parola per introdurlo. Sì, il nostro primo ospite già in collegamento, si tratta di Massimo Leoni. Massimo, ci senti? Sì, vi sento, buonasera. Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Massimo Leoni. Grazie a te, grazie a voi. Lavora a Sky TG24 dal 2003, da 6 anni ne è capo della redazione politica, si è sempre occupato di economia e finanza, inizialmente come analista finanziario alla BNL, poi passato alla Casa Stampata dove scriveva su Italia Oggi di economia internazionale e politica economica, e dal 2001 al 2003 si è occupato di economia, finanza e mercati sulla TV del Sole 24 Ore. Dunque Massimo, grazie mille per aver accettato il nostro invito, partirei subito con una domanda. Tu sei favorevole o contrario ad un governo tecnico in questo periodo di profonda crisi in cui il nostro paese è chiamato a riequilibrio dei conti, sbilanciati pericolosamente dal debito e soprattutto dall'assenza di crescita? Ma guarda, il governo tecnico è un'anomalia politica, passatemi il gioco di parole. È giustificato in un momento che è del tutto particolare, non soltanto per l'economia italiana, ma per l'intera area dell'euro e quella europea, ma insomma più in generale per tutta l'economia mondiale. Adesso noi abbiamo sofferto in un passato recente di qualcosa che molti analisti politici, ma anche economici, hanno visto come un deficit di credibilità per quello che riguarda l'operato e i personaggi che hanno fatto parte del nostro precedente governo, e che quindi in questo momento evidentemente erano abbastanza sotto accusa e sotto l'attacco dei mercati. Questo è stato un tentativo condotto interamente dal nostro Presidente della Repubblica, che si è potuto concretizzare nel momento in cui il governo Berlusconi ha constatato di non avere più una maggioranza in uno dei due rami del Parlamento. Il governo tecnico adesso è nato, non ancora completamente perché domani si voterà alla Camera, al Senato ha ottenuto la fiducia, e staremo a vedere. Diciamo, le premesse sono per un esecutivo di grande serietà e di grande preparazione, soprattutto nelle materie economiche. Vedremo se questo esecutivo avrà il sostegno della politica, perché non dimentichiamo una cosa: il governo è cambiato, radicalmente cambiato, nei personaggi, nei modi, insomma, nelle culture che ne fanno parte, ma il Parlamento italiano è composto esattamente dalle stesse persone di prima. Massimo, ti vorrei chiedere una tua opinione, un tuo commento su quanto leggevo questa settimana in un editoriale qui a Bruxelles di European Voice, dove sostanzialmente si diceva appunto che, vista da Bruxelles, l'opzione tecnica con Monti è, diciamo, vista bene, un governo tecnico ha forse maggiori possibilità di mettere in pratica le riforme che chiede l'Europa. Questo articolo però sottolineava come questo però crei un divario tra la governance della zona euro e, dice, l'accountability democratica, cioè la responsabilità democratica di chi ci governa. Questo divario si sta allargando e governi democraticamente eletti sono stati fatti cadere dalla crisi del debito sovrano e sono stati sostituiti da governi tecnici. Quindi forse gli elettori ne traggono il messaggio che il rafforzamento della governance della zona euro non è forse poi così democratica, forse le preferenze elettorali in Francia e Germania hanno quasi la meglio delle preferenze degli elettori in Italia e in Grecia. Tu che cosa ne pensi? Beh, insomma, io penso che dall'esterno l'avvento di un governo tecnico sia senz'altro ben visto. Dall'interno esiste un problema di legittimità politica, non c'è alcun dubbio. Questo è un governo che non ha votato nessuno e pur sostenuto ampiamente nelle due Camere, perché perlomeno l'inizio del cammino del governo Monti sarà nei numeri garantito, però non ha avuto un'investitura popolare. Ecco, il vantaggio che ne trarrà l'Europa e i mercati, che è indubbio, si traduce però sicuramente in un problema di legittimità democratica. D'altra parte non è l'unico esempio, tu ricordavi quello della Grecia, cioè c'è stato qualcosa di clamoroso che è successo a Cannes un paio di settimane fa, quando l'allora premier greco è stato invitato e quindi costretto a, diciamo, togliere di mezzo l'idea di un referendum sulle misure che l'Europa aveva chiesto. E insomma, se si arriva da parte di due stati membri europei, stati sovrani, a chiedere a un altro stato sovrano di rinunciare a una prerogativa che è di democrazia diretta come il referendum, per paura appunto di turbare i mercati ed equilibri economici esterni, beh, questo è già una cosa eclatante di quello che sta succedendo. Si tratta di vedere se questa sospensione un po' delle democrazie così come le conoscevamo è una sospensione temporanea, una parentesi per permettere, diciamo, una ripresa che tutti attendiamo. Dopodiché, insomma, tutti speriamo che sia l'Europa nel suo complesso istituzionale diventi una realtà più democratica e sia i singoli paesi membri possano riprendere, diciamo, quello che è la loro vita istituzionale normale. Il caso italiano non è, a mio parere, grave quanto quello greco, sia nella componente economica sia per quello che è successo a livello politico e istituzionale, però anche qui, insomma, indubbiamente in questo momento esiste un problema e chi si oppone al governo Monti non manca di farlo rilevare. Quando parli di istituzioni europee, ti riferisci forse anche alle cosiddette missive che le istituzioni europee recentemente hanno inviato alle istituzioni italiane? Mi riferisco a forse la prima, che era quella dell'agosto di quest'estate, appunto dell'agosto, che l'allora governatore della BCE e il suo successore Draghi scrissero a quattro mani al governo, missiva che inizialmente era segreta, che il governo doveva mantenere tale, ma poi venne pubblicata dai giornali. Successivamente ve ne fu una seconda e credo che ultimamente ci sia stato anche un questionario inviato da Bruxelles a Tremonti. Dunque abbiamo avuto come minimo A situazioni un po' paradossali politicamente. Scusa, no, ti ho interrotta, volevi finire la domanda, fai pure. Sì, no, mi volevo riferire, al di là dei contenuti e comunque che probabilmente sono giustificati a livello economico, io mi chiedevo qual è la forma di queste lettere, che alcune volte, come per esempio la prima, la famosa missiva segreta, era stata vista come un diktat, cioè praticamente un'istituzione europea non eletta democraticamente come la BCE, dunque un'istituzione economica e monetaria, lo sappiamo benissimo, si permette di inviare un diktat a un governo legittimamente eletto e con una maggioranza parlamentare. Tu come vedi queste misure? Allora, guarda, un po' quei diktat e quelle lettere somigliano un po' alle trattative di tipo giuridico ed economico che i creditori fanno con i loro debitori, no? Normalmente le banche con i loro clienti o quelle imprese in crisi, no? In cui chi ha prestato del denaro o della credibilità a qualcun altro esige da lui dei comportamenti coerenti con il suo status di debitore. E fino a qui, diciamo, è un comportamento che le istituzioni internazionali in caso di crisi dei paesi hanno sempre avuto, cioè l'FMI per esempio è un esempio evidente, insomma tutte le aree in crisi e i paesi in crisi hanno dovuto, in quanto debitori dell'FMI che li ha aiutati a venire fuori dalla crisi, sottostare a determinati diktat. Qui il problema è leggermente diverso, anzi è considerevolmente diverso, perché noi in Europa siamo in un condominio, non siamo soltanto in uno status di debitore o creditore, ma siamo in una comunità, appunto, in una unione, e quindi i problemi dell'uno evidentemente riguardano anche gli altri. Il fatto che sia stato emesso più volte, diciamo, quelli che tu hai chiamato diktat in forma di lettere, io credo che sia dovuto anche in parte alla scarsa credibilità che in quel momento il governo italiano aveva, e quindi evidentemente le istituzioni europee hanno pensato di poter e dover guidare il governo italiano per una strada che forse da solo non aveva intenzione di intraprendere. Però per il resto ovviamente siamo anche qui ai limiti della correttezza istituzionale per una unione di stati che dovrebbe essere interdipendente. Credo che questo sia un problema in questo momento dell'Europa, così come un problema dell'Europa è che due stati, Francia e Germania, in questo momento siano, diciamo, un po' l'unica guida. Attenzione, perché poi Francia e Germania, questo che sembrava un binomio unito, se la Francia, come sembra, sta andando incontro anche lei a problemi sul mercato, rimane solo la Germania, insomma, e questo è un altro problema. Massimo, io ho un'ultima domanda da studio, poi credo che anche Alessandra ne abbia una ultimissima. Io ti vorrei chiedere velocemente, forse domanda che richiederebbe molto più tempo, però un bilancio dell'era Berlusconi, 17 anni dopo l'entrata in politica di Silvio Berlusconi. Ora, Berlusconi ha generato in Italia grandi aspettative. L'Italia ha sempre, diciamo, aspettato, perlomeno in certi ambienti intellettuali, una rivoluzione liberale ed un partito, uno schieramento che se ne facesse l'alfiere. Diciamo che in questo momento, quando la vicenda berlusconiana, non dico che sia conclusa, però sicuramente segna un po' il passo, quelle promesse non sono state mantenute. L'Italia non è un paese granché più moderno di quanto non lo fosse 15 anni fa. Sicuramente c'è stato un modo innovativo di far politica, ma questo credo che sarà più possibile giudicarlo con un passaggio di tempo più ampio. Credo che, appunto, soprattutto alcune aspettative siano state deluse, tant'è che la crisi del berlusconismo, così come la stiamo vivendo adesso, è fondamentalmente una crisi interna al partito del PDL, che ha visto man mano allontanarsi prima personalità di secondo piano, poi invece personaggi sempre più influenti. E in questo momento in Italia il problema è sia capire quale sia il futuro di un partito importante e grande, quello di maggioranza relativa nell'attuale Parlamento come il PDL, sia in generale un po' dell'idea liberale e del centrodestra in generale. Ecco, i prossimi mesi diranno qualcosa di più. In questo momento la situazione è molto incerta, non che a sinistra o nel centro-sinistra sia molto più definita, però fa impressione vedere un partito molto unito e granitico intorno al suo leader, un partito lideristico, come si è detto molte volte, e in questo momento sicuramente diviso, al di là dei numeri che dirà poi la fiducia al governo Monti. Un'ultima battuta, Massimo, la volevo dedicare all'Europa, questa che viene da molti definita come la crisi del sistema euro. Annalisa prima citava la Grecia, ci sarebbe anche Spagna, Portogallo, Irlanda da citare, l'Italia ovviamente ne abbiamo parlato ampiamente. Tu dicevi che forse la Francia sta incominciando a vedere, a sentire i primi problemi. Come vedi il futuro dell'Europa fra qualche anno, primo, e secondo, c'è il pericolo di vedere un'Europa troppo tedesca o solo tedesca? Ma il pericolo sì, della germanizzazione dell'Europa sicuramente c'è. Se stiamo ai fondamentali economici, in questo momento c'è una differenza sia, diciamo, nella valutazione che i mercati danno del debito sovrano tedesco, ma anche in alcuni fondamentali, che effettivamente fa abbastanza impressione. Il problema è se la Germania intende ancora far parte di una comunità di stati e comportarsi di conseguenza. Ho sentito che oggi la Merkel apriva le possibilità di una revisione del trattato europeo. Se alle parole seguono i fatti, c'è una presa di coscienza che se si vuole salvare l'euro, un'intera area monetaria ed economica, di cui la Germania fa parte, questa è una cosa da fare. Io non credo che dall'euro si torni alle monete nazionali, io credo che come tutte le crisi questa avrà un termine, è molto difficile per me in particolare, ma insomma vedo che in giro tra economisti e analisti fare, diciamo, descrivere una terapia e dare una prognosi della crisi sia molto molto complicato, però io credo che faremo molto difficilmente a meno dell'euro nei prossimi anni, si tratterà di trovare una governance all'altezza sia economica che politica. Dal punto di vista economico manca un ministro del tesoro comune, dal punto di vista politico se ne è parlato per tantissimo e se ne parlerà ancora di come all'Europa monetaria non sia seguita completamente quella politica, sono tutti passi che sono necessari per dare a quest'area, diciamo, oltre che una forza geografica, anche una forza politica ed economica nei confronti del resto del mondo. Annalisa, se non hai altre domande da studio, direi di salutare l'ospite. No, io non ho altre domande da studio. Massimo, noi ti ringraziamo per il tuo interessantissimo contributo alla trasmissione di questa sera e ovviamente speriamo di riaverti presto in futuro come ospite a Giro di Boa. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro, buona serata. Facciamo ora una pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9 qui a Bruxelles. Questa sera stiamo parlando di quanto sta avvenendo in Italia, la formazione di un governo tecnico, del governo Monti, per far fronte alla crisi. Ne abbiamo parlato prima con il nostro primo ospite, Massimo Leoni, capo della redazione politica di Sky TG24, e continuiamo la chiacchierata conversazione sul tema di questa sera con il nostro secondo ospite. Esatto, Annalisa, secondo ospite che è già in collegamento con noi, si tratta di Stefano Zurlo. Stefano, ci senti? Eccoci, buonasera. Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Stefano Zurlo è inviato dal giornale, segue la politica, ha seguito per molti anni la cronaca giudiziaria e quella nera. L'ultimo libro pubblicato a settembre da PM si intitola Prepotenti e impuniti sullo sfascio della giustizia civile. Zurlo è opinionista e ospite di numerosi programmi televisivi, insegna anche giornalismo alla Link University di Roma. Allora Stefano, vorrei incominciare questa chiacchierata partendo da una citazione. Affidare alla sinistra e alla gran parte della DC la soluzione di problemi che loro stessi hanno creato è come chiedere a Dracula di donare il sangue. È una contraddizione comica. Come tu ben sai, questa è una citazione di... Questo l'ha detto Feltri. L'ha detto sabato. Esatto, Feltri. Volevo chiederti cosa, se brevemente ci puoi spiegare che cosa intendeva Feltri dicendo questo. Ma questa frase l'ha detta Feltri sabato mattina appunto al Teatro Manzoni di Milano, dove si è radunato un po' il popolo, chiamiamolo così, dei militanti, ma anche insomma una parte di opinione pubblica, c'erano almeno 1000 persone che hanno ascoltato Feltri, Sallusti e Ferrara, perché non erano convinte, non sono tuttora convinte del fatto di dover votare, anzi applaudire quasi con una standing ovation questo governo tecnico, che poi è un governo del Presidente della Repubblica guidato da Mario Monti. Cioè, qual è il punto? Il punto è molto semplice secondo me, il punto è che Berlusconi non ha più la maggioranza perché si era fermato a quota 308 e sarebbe stato... La cosa migliore sarebbe stata, che quella che sottolineava appunto Feltri, sarebbe stata quella di andare al voto. Non si è fatto, non si è potuto fare perché c'è lo spread, perché c'è tutta la questione, la dinamica internazionale che conosciamo, l'Unione Europea che preme, Obama che telefona, la Merkel che chiama, Sarkozy e tutto il mondo che chiede questo. A questo punto si vota un governo tecnico che anche il PDL ha deciso di votare e al Senato, come sappiamo, la fiducia è stata data pochissimi minuti fa, proprio lo stavo guardando adesso in televisione, no? È stata data la fiducia con 281 voti, quindi una maggioranza quasi plebiscitaria. Benissimo, Monti parte con le riforme, però poi alla fine quali sono queste riforme? Blu ha indicato alcuni temi, ma sono temi incandescenti, perché per esempio la riforma che in Italia si aspetta da moltissimi anni, che noi sul giornale abbiamo scritto perché la reclamiamo da molti anni, del mercato del lavoro, la possibilità di toccare l'articolo, il famoso articolo 18, e quindi di poter licenziare, cosa che oggi è pressoché impossibile nelle medie, nelle grandi imprese, insomma la possibilità di riformulare in un modo più moderno le relazioni dentro le industrie, dentro il mondo del lavoro, e poi tutti gli altri temi che seguono a ruota, sono temi, dicevo, incandescenti. Ora la sinistra applaude e applaude perché arriva il nuovo governo, in realtà perché se ne va Berlusconi, e ci sono stati moti di piazza, manifestazioni, perfino un'orchestra che ha intonato l'alleluia di Handel, no? Davanti a Palazzo Grazioli, al Quirinale, festeggiando l'addio di quello che consideravano il tiranno che ha avvelenato l'Italia, ha avvelenato i pozzi per tanti anni. Poi però, una volta che sono finiti gli applausi, che sono finiti l'euforia, si fanno le riforme, e sono esattamente quelle riforme che il centrodestra ha predicato per molti anni, che in parte, colpevolmente dico io, non è riuscito a fare, però sono riforme che, se non sono lacrime e sangue, sono comunque riforme che una parte molto importante della sinistra, tutta la parte della sinistra che sta con la Camusso, con la CGIL, con la FIOM, una parte importante del PD, non solo non applaudirà, ma vede con terrore, vede con orrore, cioè anzi, proprio è agli antipodi di questo mondo, di questa cultura e di questo tentativo di riforme. Quindi quello che diceva Felti era cogliere esattamente questo paradosso: tutti sono contenti perché se ne va Berlusconi, quindi tutti applaudono a Monti, ma quando Monti comincerà a fare sul serio, staremo a vedere che cosa succederà. Certamente una gran parte, appunto, del suo programma mi pare agli antipodi di quello che la sinistra predica, vuole e cerca di portare avanti. Stefano, ti vorrei chiedere un commento su una dichiarazione di Monti sull'Italia e l'Europa, e poi un commento sullo stesso tema, su quanto ha dichiarato un editoriale qui a Bruxelles di European Voice. Monti ha detto: il paese deve tornare a essere elemento di forza e non di debolezza di un'Unione Europea di cui siamo stati tra i fondatori. Questo editoriale di cui ti accennavo scriveva questa settimana: con il governo Berlusconi il contributo dell'Italia all'Unione Europea è stato irrilevante negli ultimi anni, cosa che rappresenta una tragedia se si considera il peso dell'Italia in termini di popolazione, in termini economici, il ruolo dell'Italia appunto tra gli stati fondatori dell'Unione Europea. Tu che cosa ne pensi? Ma sì, io vorrei capire in che senso il contributo dell'Italia è stato irrilevante. Allora, è vera una cosa, allora sicuramente, e lo dico in modo molto critico, questa maggioranza, intendo la maggioranza di centrodestra che ha governato il paese, ma è quello che accennavo anche prima, se gli si può fare una critica è di non essere stata, tra virgolette, berlusconiana fino in fondo, di non aver svolto quelle riforme che hanno predicato Berlusconi e soci per tanti anni, dal 94 in poi. Io, dicevate prima, mi sono occupato per molti anni di giustizia, è da 15 anni che sento parlare, anzi a 17 anni che sento parlare da parte del PDL, che poi prima era Forza Italia, di separazione delle carriere, la riforma del codice penale, la depenalizzazione, lo svuotamento delle carceri, tante belle parole, poi molte riforme sono rimaste al palo, non sono mai cominciate, non si sono potute fare per una ragione o per l'altra, e quindi c'è questo problema. Dopodiché però è avvenuto un altro fenomeno in parallelo, che anche quello cercavo di spiegare prima, cioè che una parte importante del paese, quella che un po' in modo convenzionale, anche un po' semplicistico, chiamiamo i poteri forti, quindi diciamo il mondo degli imprenditori più importanti, il mondo della finanza, i grandi banchieri, l'università, gli intellettuali, il mondo del cinema, in realtà anche gran parte dei giornali più importanti, ha accreditato a torto a ragione di Berlusconi un'immagine che è un po' quella della macchietta, no? Del bunga bunga e tutto il resto che sappiamo, un'immagine che ha fatto il giro del mondo, che ha finito con il ridicolizzare alla fine l'Italia. Però poi se andiamo a vedere, in realtà alcune riforme sono state fatte, penso per esempio alla riforma dell'università. Il problema è che quando si tocca poi si mette mano a cambiare il paese, scattano tutte le oligarchie che a parole sono tutte progressiste, modernizzatrici e quant'altro, nei fatti sono ultraconservatrici, e quindi non si può toccare il mercato del lavoro, si fa fatica a toccare l'università, non parliamo della scuola, non parliamo dei sindacati, non parliamo delle professioni. Detto questo, poi l'Italia non è che sia in questo sfascio che tutti accreditano, secondo me, in modo semplicistico. Beh, insomma, noi abbiamo un avanzo primario al netto del debito pubblico, siamo la seconda economia dell'Europa come esportazioni, abbiamo comunque una piccola impresa che funziona e che esporta un po' dappertutto, abbiamo nonostante tutto un tenore di vita che è molto elevato. E poi voglio dire, questo tema dello spread che è stato sollevato, mi pare che si sia un po' confuso Berlusconi con la soluzione di tutti i problemi, perché alla fine questo spread sta salendo vertiginosamente in molti altri paesi. Noi facevo un calcolo stasera, lo scrivo sul giornale di domani, che da giugno lo spread in Italia è salito in modo importantissimo del 180%, per cui siamo arrivati a quota 500 e oltre, ma non è che in Francia in proporzione sia salito meno, perché la Francia era a 40-45 punti e è salito a 200, quindi è salito in proporzione più del doppio, del 380%, e mi pare che proprio in Belgio ci sia una situazione difficile, persino in Austria, che poi era un paese solidissimo con la tripla A. Allora, anche qui si attribuisce a Berlusconi la responsabilità, che Berlusconi forse ha solo in parte, perché la crisi, l'anomalia italiana in realtà rientra nella crisi di governo dell'euro e nel fatto che la Banca Centrale Europea non è una banca, come si dice in Italia, prestatrice di ultima istanza, per cui non acquista i titoli e lascia fare la speculazione nel mercato internazionale. Allora, è chiaro che ci sono stati dei problemi, delle difficoltà, e che l'immagine dell'Italia certamente è un po' in declino, è deperita, usiamo tutte le espressioni che vogliamo negli ultimi anni, però mi pare che su questo poi ci sia marciati per far sì che alla fine si riuscisse a buttare giù Berlusconi, che in realtà gli italiani continuavano a tenere su, perché poi alla fine Berlusconi ha vinto le elezioni e alla fine Berlusconi ancora una settimana fa, 10 giorni fa, aveva la maggioranza relativa e l'ha persa di pochissimi voti e senza essere sfiduciato in Parlamento. Questo è quello che è avvenuto. Questo è avvenuto, poi per carità, ripeto, ci sono critiche molto forti che vanno fatte, sono accadute cose molto negative. Insomma. Ma per riallacciarmi a questo discorso che tu giustamente stai facendo, hai citato il capitale di fiducia che nell'ultimo periodo l'Italia ha perso. Ma questa credibilità, a chi lo si deve questo? Non si può dire che Berlusconi comunque sia semplicemente un capro espiatorio. Io non ho detto che è semplicemente. Io non voglio essere semplicistico o propagandistico. Ma giustifico la mia domanda semplicemente perché, vivendo all'estero da diversi anni, leggendo comunque la stampa europea, ma soprattutto parlando con la gente di tutti i giorni che comunque frequenta un ambiente internazionale, non solamente di un partito politico, ci si rende conto che la svolta in Italia è stata accompagnata da un forte sospiro di sollievo in diverse capitali europee. Dunque forse. Ma che la grande stampa internazionale sia d'accordo, fosse d'accordo nel buttar giù Berlusconi, su questo non ci piove, perché dal Financial Times, no, al Time, ai grandi giornali inglesi, americani, francesi, spagnoli, erano tutti d'accordo. Su questo ti do pienamente ragione. Ma e allora forse ci volevano delle altre misure per evitare appunto lo smembramento di questa credibilità, di questo capitale di fiducia che l'Italia comunque possedeva? L'hai detto tu stesso, siamo la seconda economia per quanto riguarda le esportazioni, siamo la terza economia se guardiamo l'insieme del prodotto interno lordo della zona euro. Nessuno in Europa vuole che l'Italia vada in default, no, perché significa certo, rendere allora default dall'intera zona euro. Sì, no, voglio dire che sicuramente ci sono stati dei problemi molto grossi, sicuramente Berlusconi ha commesso degli errori, sicuramente ha sbagliato alcuni comportamenti che sappiamo sul piano personale, per cui poi tutta la vicenda delle ragazze, delle escort, il bunga bunga, le battute, certe gaffe, certe barzellette che lui ha raccontato, sicuramente sono fuori linea rispetto alle modalità con cui di solito si comportano, agiscono, mantengono le etichette, i premier, i capi di Stato, le personalità in vista in Europa e non solo in Europa. Su questo non ci piove. Poi, che è l'argomento che mi interessa molto di più, sicuramente, e questo l'abbiamo detto anche prima e sono il primo a dirlo, ad averlo detto e anche scritto sul giornale, detto anche in televisione, sicuramente Berlusconi e la sua maggioranza per motivi vari hanno sprecato un'occasione straordinaria, tema irripetibile, per portare a fondo, fino in fondo, alcune riforme. Io penso che se si fosse fatta ad esempio la riforma e l'abolizione delle pensioni di anzianità, non di vecchiaia, sia chiaro, di anzianità, che sono uno specifico italiano, un tratto italiano, forse non saremmo finiti in questo guaio. Però poi, quindi non è che sia il capo espiatorio, però poi d'altra parte è molto facile questo giochetto per cui si attribuisce poi tutti i problemi vengono attribuiti a lui. Allora, c'è un'interpretazione ad esempio di un fatto secondo me incontrovertibile: da 17 anni Berlusconi è oggetto di procedimenti giudiziari, e anzi dal 94, io ero a Palazzo di Giustizia, e dal 94 Berlusconi colleziona assoluzioni. È vero che alcune sono prescrizioni, è vero che alcuni processi sono ancora in corso, è vero che in qualche caso qualche legge è stata modificata e magari gli ha dato anche una mano, ma insomma la sostanza è una collezione impressionante di assoluzioni. Però è chiaro che in questo modo l'immagine dell'Italia si deteriora, è chiaro che le udienze che si susseguono vengono amplificate dai giornali e fanno il giro del mondo, è chiaro che le intercettazioni con tutte le frasi smozzicate prese qua e là distruggono l'immagine di Berlusconi, distruggono l'immagine del governo e alla fine danneggiano l'immagine dell'Italia. Dopodiché esiste anche un atteggiamento tipicamente italiano, che è quello un po' del declinismo, no, del pessimismo, del dire siamo alla fine di un ciclo, non arriviamo alla fine del mese, ma mi pare che le cose stiano solo in parte così, perché poi se andiamo a vedere la crisi spagnola con tassi di disoccupazione impressionanti è molto peggio di quella italiana, se andiamo a vedere appunto la crisi che adesso sta investendo la Francia, ma forse la Francia non è messa così bene e meglio rispetto all'Italia, solo che poi tutti finiscono col parlare dell'Italia, finiscono col dire che l'Italia, no, somma tutti i vizi possibili e immaginabili, e però questo un po' è un tratto che purtroppo è finito addosso a Berlusconi, anche perché Berlusconi rappresentava e rappresenta un'anomalia nel panorama della politica italiana ed europea. E un po', secondo me, però, mi permetto di dire, un po' la vecchia idea degli italiani, pizza e mandolino, per cui quando poi si parla dell'Italia si sentono delle cose incredibili. Questo non c'entra Berlusconi, faccio solo un esempio rapidissimo: quando c'è stata la vicenda di Cesare Battisti, no? Quindi questo ex terrorista condannato a più ergastoli, scappato in Francia e poi in Brasile, e che poi il Brasile, come sappiamo, alla fine si è tenuto e non ha rimandato in Italia. Io ho letto non sui giornali brasiliani, o meglio non solo sui giornali brasiliani, ma su quelli francesi, cose incredibili sull'Italia, ma dette da personalità importantissime della politica francese, compreso l'attuale candidato presidente, no, Hollande della sinistra, oppure dal sindaco di Parigi. Cioè si legge che in Italia venivano torturati negli anni 80 e 70 prigionieri cosiddetti politici, che si facevano processi speciali, cioè si dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, si scrivono delle cose che sono assolutamente campate per aria. Evidentemente si considera sempre l'Italia un po' questa specie di, no, paese molto curioso, molto bello da visitare, ma che poi alla fine non è solido, non è un paese affidabile, e da questo punto di vista Berlusconi diventa un po' il centro, no, di questo paese così molto pittoresco, molto curioso, molto divertente, ma che alla fine appunto è un paese che non funziona, che non c'è, che non è allineato con l'Europa. Con questo, ripeto, non voglio dare una soluzione semplicistica, il declino in parte c'è, la crisi c'è, il paese cresce poco, e cresce poco per una serie di fattori che potremmo parlarne a lungo, ma che non hanno, insomma, che hanno un'origine forse più in là di Berlusconi. Sicuramente c'è un sistema fiscale che non funziona bene, le imprese sono tassate troppo, e su questo né lui né il centrosinistra sono stati capaci di portare modifiche. Abbiamo un sistema scolastico, universitario, che anche quello andrebbe sistemato, migliorato, modificato. Siamo un paese che ha molte corporazioni, molti privilegi, molte rendite che sono difficilissime da toccare, e se il governo alla fine è caduto, lo spread, il partito dello spread, come lo chiamo io, di quelli che spingevano per un ribaltone mascherato da nobili finalità, e poi la Lega ha le sue responsabilità, perché sarebbe stato a mio parere sufficiente andare a colpire le pensioni, come dicevo prima, di anzianità, che forse il governo avrebbe avuto un po' di respiro e sarebbe andato avanti. Purtroppo alcune riforme, per le divisioni della maggioranza, per le defezioni, l'allontanamento di Fini, e poi per i processi, il pressing internazionale, la grande stampa e tutto il resto che dicevamo, non sono arrivate a compimento, ed è un peccato, perché adesso Monti cosa fa? Porterà fino in fondo le riforme che Berlusconi non ha saputo appunto interpretare in fondo. E torniamo alla tua domanda iniziale, che era quella appunto della sinistra. La sinistra applaude, però una parte della sinistra è molto modernizzata, ma una piccola parte, gran parte della sinistra sta sulle posizioni appunto della FIOM, della CGIL, e vede con orrore per esempio gli accordi che sono stati fatti dalla Fiat a Pomigliano d'Arco e tutto quello che sta accadendo nel mondo delle relazioni industriali, e temo che sia una sinistra che a parole difende i deboli, in pratica difende i privilegi di una piccola fetta di lavoratori, perché poi ormai il mercato è fatto da molti precari che non hanno alcun diritto. Stefano, purtroppo non abbiamo molto tempo, io da studio ho un'ultima domanda prima di ripassare la parola ad Alessandra. Sì. Ti vorrei chiedere quali prospettive vedi tu ora per il centrodestra, per il PDL, scusa, più nello specifico, e quale ruolo. Ti ho sentito male. Ti vorrei chiedere. Mi senti? Sì, mi senti adesso? Ruolo? Sì, ti volevo chiedere, sì, secondo te quali prospettive si aprono ora per il PDL e quale ruolo giocherà Berlusconi? Ma per il PDL è un momento difficilissimo, perché in questo momento il PDL rischia letteralmente di essere fatto a pezzi, di essere risucchiato un pezzo dall'UDC, un pezzo da FLI, un pezzo dalla sinistra, oppure da pezzi potrebbero andarsene per i fatti loro e fondare partiti autonomi. Quindi è un momento difficilissimo, perché comunque è il primo momento in cui Berlusconi oggettivamente non è più appunto al potere, ma soprattutto sembra in qualche modo in procinto di passare la mano, se non altro per ragioni anagrafiche. Però appunto la sfida è una sfida molto importante, perché si è sempre detto che il PDL era un partito di plastica, un partito finto, un partito costruito a immagine e somiglianza del suo capo, e ovviamente questo è vero, perché è un partito con un leader carismatico da sempre che lo ha fondato, l'ha diretto, l'ha governato, e adesso si tratta di fare questo passaggio in mare aperto, anche se poi credo che alla fine, da quello che si capisce, non è che poi Berlusconi farà 10 passi indietro, ne ha fatto uno, però ha già detto che si dedicherà al partito, insomma, sai, conoscendo Berlusconi è un personaggio talmente imprevedibile che magari ricompare dove non ce l'aspettiamo, non dico che si ricandiderà nel 2013 o quando sarà, ma insomma, eviterei di celebrare il suo funerale come molti hanno fatto per anni e anni, no? Prima raccontavo dei processi, io ero a Palazzo di Giustizia il 13 dicembre 1994 e mi ricordo il giorno in cui lui veniva interrogato per il primo famoso avviso di garanzia da Borrelli, da Davigo e da Colombo, insomma sembra un secolo fa, e mi ricordo molti giornalisti stranieri che dicevano: ma voi come fate a votare Berlusconi, come fanno gli italiani a votare Berlusconi? È un po' la domanda che in qualche modo si poneva prima, e tutti noi rispondevamo: ma è un mistero, ma tanto Berlusconi è finito. Era il 13 dicembre 1994, ecco, sono passati anni. Siamo in chiusura, avevo un'ultima battuta che ci tenevo a farti, hai 20 secondi di tempo per rispondere. Hai citato prima il partito dello spread e sempre tu prima citavi la sindrome del declino tipica italiana. Allora mi domandavo, questo partito dello spread è forse la tipica teoria del complotto tipica italiana? In parte sì, in parte no, perché esiste comunque un gruppo molto importante, molto influente di banchieri, di industriali, in parte anche di personaggi legati alla sinistra, che hanno spinto Berlusconi giù, diciamo, da dove stava seduto, utilizzando naturalmente, legittimamente, i fatti, le circostanze, le convulsioni, le difficoltà del governo. Non c'è stato nessun complotto, a mio parere, io non credo ai complotti, alle dietrologie, non ci ho mai creduto, credo però che si sia fatto di tutto per buttarlo giù, e alla fine dove non si è riuscito col voto, con la sfiducia in Parlamento, con le imboscate parlamentari, con i processi e quant'altro, ci è riuscito il partito dello spread, utilizzando una circostanza vera ma dilatata, che è appunto lo spread, non è un gioco di parole, lo spread è servito al partito dello spread per farci fare bye bye a Mr. Berlusconi. Stefano, ti dobbiamo salutare perché siamo arrivati in conclusione al tempo a noi dedicato, grazie mille per il tuo interessante contributo, a risentirci alla prossima e buon lavoro. Grazie Stefano, grazie, un saluto dallo studio a Bruxelles, buon lavoro. Arrivederci, grazie, ciao, grazie. A risentirci alla settimana prossima. Buona serata a tutti.